Buonasera a tutti gli ascoltatori. Da questo momento on streaming DJ Vulpis presenterà su Radio Live Session il programma Dance Revival. Buon ascolto a tutti coloro che sono connessi. Centro. vita permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... diventi bella, questa notte tu sarai la stella della disco, il movimento prende un andamento lento, lento, lento. Falla, falla, che la vita non ti molla, molla, questo è il ritmo che ti incolla tra la folla, e di colpo all'improvviso puoi vedere il paradiso, il paradiso. Così questo mercoledì 29 aprile siete connessi su Radio Live Station, questo è il Dance Revival. We'll be right back. E allora cominciamo così col salutare Valerio, l'Uomo Revolution, Martina, tutti gli ascoltatori che sono connessi. A quanto pare in questo triste o tristissimo, come lo vuoi chiamare, Vulpis, mercoledì 29 aprile, noi cerchiamo di rallegrare un po' la situazione, andiamo avanti col Dance Revival. Allora ricordiamo a tutti quanti gli ascoltatori per l'appuntamento di domani sera dalle ore 21 alle ore 22 col programma Hardstyle. In questo momento il programma Dance Revival. E dicevo così che dalla finestra qua di fronte alla radio sembra un mercoledì sera un po' triste, un po' cupo. Ma noi siamo qua apposta per tenervi compagnia e andare avanti con la musica. Together, you and me, forever. Salutiamo Luca che ci ascolta da casa, salutiamo Valeria, Martina e tutti quanti gli ascoltatori. Ricordando anche l'appuntamento di venerdì dalle ore 21.30 alle 22.30 con il programma elettronico. Ricordando anche l'evento ufficiale, sabato 23 maggio, discoteca Lagarde, DJ Vulpis ed Emo, insieme a Killer Faber, Gadisca, El Paris, Bismarck, Tony Natone. Sarà il 23 maggio, discoteca Lagarde, per qualsiasi informazione sulla chat o sul forum di Radio Live Session. Mi chiedono perché questa serata è un po' triste. Non lo so, io a guardarla da qua mi sembra un po' cupa. Cosa ne pensi, Vulpis? Andiamo avanti con la musica. Dance Revival, Radio Live Session. Logicamente un po' triste, ma i nostri ascoltatori che ci sostengono e ci rendono così felici, ci danno gioia in questo mercoledì 29 aprile. Allora, allegria su Radio Live Session, ci spostiamo, facciamo un passo in Brasile con Junior Jack e balliamo la samba. Per Valerio, questa canzone non ti mette allegria se sei da solo, ma se con una dolce donzella o in compagnia di altre ragazze su una spiaggia di Rio, penso che un bel effetto te lo farebbe. Yes, I answer we found. We don't know if you feel too. Life isn't easy, you know. Continues waiting all day. Maybe for us it's too hard. If we look into ourselves, we might find above all that. We might hear a new one sound. Maybe an answer we found. Everybody in the world, we say. In my mind, but then I trust in my thought. I just wish I could be free. But if I open my eyes, I see the sky up above. Then I stay here in the sun. This is feeling so strong. Don't I live in this way? Oh, this was stressing our mind. But then I trust in my thought. We just wish we could be free. But if we open our eyes, we see the sky up above. Then we stay here in the sun. This is feeling so strong. Everybody in the world, we say. Che siete sempre connessi su Radio Live Session, questo è il programma Dance Revival. Ricordiamo domani, giovedì 30 aprile, dalle ore 21 alle ore 22, il programma Hard Style con Electroshock. E venerdì dalle ore 21.30 alle 22.30 il programma Elettronico a cura di DJ Wolfis. Questa è Radio Live Session Dance Revival. Turn it up, build a foundation. Boys and girls, right across the nation. Give it up, feel the vibration. In your soul, build a foundation of love. Allora ascoltatori e ascoltatrici, siamo quasi arrivati alla fine del programma Dance Revival. DJ Vulpis sta ancora mixando on streaming. Vi saluta con l'ultimo disco per questa sera e vi diamo l'appuntamento a domani sera alle ore 21. Passando poi dal giovedì Art Style al venerdì elettronico. Salutiamo e ringraziamo ancora tutti quanti gli ascoltatori di Radio Live Session. Ci saluta così e vi ringrazia DJ Vulpis. un saluto, un abbraccio da parte di DJ Vulpis, Demo, da tutto lo staff Radio Live Session, a tutti quanti gli ascoltatori connessi. You.